Potrei morire tra le tue mani fino a domani. Resta con me. E poi entrando dentro i tuoi sogni, tornare solo quando mi vuoi. Quando sei a terra, quando hai paura, ricorda che sei sempre l'unica per me. In quell'istante sembrava eterno, ma già dall'alba non c'eri più. Sei la speranza di un attimo negli occhi tuoi. Triste ragazza che parti e mi lasci le briciole dei sogni miei. Ingenuo coglione, fosse stato per me, non c'era mai fine. È stato per me, non c'era mai fine.